Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi presentiamo due libri che non hanno nulla in comune l'uno con l'altro, se non che parlano della realtà italiana sotto due aspetti molto diversi. Il primo libro è 20 anni da sporco lobbista di Fabio Bistoncini. Buonasera, dottor Bistoncini. Buonasera a lei. Fabio Bistoncini, fondatore e partner di FB Associati, società ovviamente di lobbying, quindi ci parla in questo libro della sua esperienza, un'esperienza che quando si parla di lobby in Italia si ha sempre qualche cautela, qualche scrupolo, qualche intonazione un po' negativa. Il secondo libro è curato da Giovanni Silvano. Buonasera professor Silvano. Buonasera a lei. Il professor Silvano insegna storia sociale e analisi economica e sociale dei processi economici e sociali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova e ha curato questo libro per l'editore Il Mulino, Società e Terzo Settore, la via italiana. Io comincerei dalle lobby, perché le lobby sono qualcosa che c'è, se ne parla poco, quando se ne parla, come dicevo, se ne parla in senso negativo. Ecco, qual è la sua esperienza e qual è il messaggio che vuole dare in questo libro, dottor Bistoncini? Ma guardi che nonostante l'accezione negativa, come giustamente lei puntualizzata all'inizio, in realtà l'attività di lobbying è un processo in cui gruppi di interesse, sia interesse economico ma anche di interesse pubblico, sociale, come la tutela dell'ambiente, la tutela dei consumatori, individuano una relazione con il processo decisionale, quindi un trasferimento di istanze e di richieste, le più varie, presso chi decide. Chi decide può essere a livello nazionale, governo, Parlamento, a livello sovranazionale, l'Unione Europea, e anche a livello locale. Pensiamo al trasferimento di competenze decisionali alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali. Ecco, quindi fare lobby è fare informazione presso chi deve decidere, perché le decisioni possano essere prese conoscendo tutte le caratteristiche dello scenario in cui vengono adottate. Ma questa è un po' la definizione. Nella realtà? Nella realtà io racconto 20 anni di professione. Io faccio 20 anni, da 20 anni sono un lobbista, ho iniziato praticamente per caso, come racconto nel libro, e nel corso di questi anni ho seguito gli interessi più vari. Dall'interesse, lo posso citare perché è citato nel libro, dell'Associazione dei Rimpatriati dalla Libia, coloro che quindi hanno perso tutto, quindi un tema che tra l'altro è ritornato di grande attualità, coloro che hanno perso tutto a causa del golpe di Gheddafi, fino a grandi aziende multinazionali, italiane o straniere, e anche altri gruppi, quindi più vari. Certo, comunque nel titolo c'è 20 anni da sporco lobbista, sporco è messo tra virgolette. Sì, è messo tra virgolette perché voglio giocare sul pregiudizio, nel senso che l'obiettivo del libro è quello di sfatare il pregiudizio. I lobbisti sono sempre brutti, sporchi e cattivi, difendono gli interessi più innominabili, io cerco di dimostrare il contrario. Ecco, allora mi dia un assist per sentire adesso il professor Silvano. Il terzo settore, il non profit, il volontariato, fa abbastanza lobby, dottor Bistoncini? Delle grandi associazioni che fanno attività di lobby, ovviamente, poi dipende da come sono organizzate e dalle risorse disponibili, ma è un settore che fa attività di lobby. Come giustamente per farsi conoscere, allora professor Silvano, che ricordo autore, curatore del libro Società e Terzo Settore, la via italiana, qual è lo stato dell'arte attualmente che viene messo in luce in questo libro, in cui il suo articolo iniziale, il suo saggio iniziale fa un po' un excursus storico di una realtà molto presente, molto profonda nella realtà, nella cultura italiana. Come sta il terzo settore attualmente? Ma guardi, io senza cadere in facili ottimismi, in questo momento peraltro di grandi pessimismi, vorrei sottolineare un fatto. Ci sono moltissimi studiosi ad ogni livello, di chi inizia e di chi ha già una maturità scientifica importante, che da punti di vista molto diversi tra loro, come il libro peraltro sottolinea, stanno studiando il fenomeno e lo stanno anche da questo punto di vista promuovendo nel senso migliore della parola. Direi anche che da un punto di vista meramente occupazionale, e noi sappiamo quanto può essere importante in questo momento nel nostro paese, ma anche in Europa, negli Stati Uniti e altrove, la questione dell'occupazione giovanile, ebbene il terzo settore offre ancora ai nostri giovani importanti e interessanti attività lavorative. Non sto parlando di lavori e di occupazioni che promettono guadagni incredibili, che promettono carriere folgoranti, non si tratta di questo, ma si tratta di occupazione con un altissimo grado di gratificazione personale. Ecco, perché proprio diciamo, precisiamo, esiste il volontariato, che lo dice la parola stessa, è una offerta volontaria di tempo per impieghi sociali, ma esiste una realtà di non profit, di terzo settore, che vuol dire che queste organizzazioni non hanno un carattere, una finalità di lucro, ma chi è impiegato in queste associazioni ha comunque un impegno professionale, quindi uno stipendio e una regolare possibilità di carriera. Certamente, certamente. Il testo e i vari articoli ruotano attorno a questa impresa sociale. Forse gli ascoltatori hanno interesse a conoscere qualche cosa di più su questo tema. Ora, dal 2006 noi abbiamo questa nuova figura dell'impresa sociale. Ebbene, è un imprenditore allo stesso titolo al quale noi intendiamo con questa parola chi produce oggetti o anche servizi in un ambito propriamente lucrativo, ovvero possiamo offrire servizi e beni con le stesse modalità dell'impresa tout court, ma garantendo un beneficio sociale che spesso le altre imprese non riescono a garantire. E pertanto gli addetti al terzo settore, quindi non al volontariato, ma certo, all'impresa sociale, al mondo cooperativo, alle fondazioni, come tutti gli altri operatori e lavoratori, hanno una loro remunerazione e un loro lavoro, uno sbocco lavorativo per la vita. Ecco, si può quantificare quant'è la presenza di queste imprese del terzo settore all'interno della realtà economica italiana? Quante persone coinvolgono? Guardi, io credo che dalle ultime stime, di questo ne ho parlato in un'altra pubblicazione, uscita anche quella l'anno scorso, quindi poco fa, si parla di circa 2,5 milioni di occupati. E vorrei sottolineare anche questo, io insegno nella facoltà di scienze della formazione, ebbene moltissimi nostri laureati operano in questa realtà e la nostra facoltà è tra le facoltà che garantisce maggiore occupazione, nonostante non sia una facoltà scientifica. Ecco, quindi è qualcosa che dà una risposta, diciamo, una risposta delle esigenze sociali, una risposta che non ci sarebbe se si rispettassero le regole assolute del mercato. Assolutamente, forse nel testo da qualche parte, poiché è stato scritto da diversi autori, non ho presente ogni pagina del testo, ma credo che nel saggio del professor Gui o del professor Giacomon si faccia riferimento al fallimento del mercato, no? Nel momento in cui noi dobbiamo gestire un ospedale, dobbiamo gestire una scuola, dobbiamo gestire un'università, un ente di ricerca, un ente lirico, è difficile creare profitto. Ecco, c'è un saggio, quello di Silvio Scannagata, dove si parla proprio peraltro anche di questa economia della felicità, che è qualcosa che va oltre appunto la semplice produzione di ricchezza, ma che prevede comunque la produzione di ricchezza. Certo, prevede una produzione di ricchezza che va incrementandosi di anno in anno, perché vi è l'obbligo statutario dell'impresa sociale di investire gli utili all'interno della propria attività, non c'è mai la distribuzione degli utili ai soci come nelle altre imprese. Non che questo sia male, non voglio dare certo su nessuno, sia ben chiaro, culturalmente noi siamo assolutamente a favore dell'impresa e speriamo che funzioni e che vada come deve andare, ma che l'impresa sociale è qualcosa di diverso, gli utili vengono reinvestiti e quindi maggiore occupazione, sempre maggiore occupazione, ma soprattutto io direi maggiore come dire, socialità, maggiore benessere sociale, maggiore felicità, chiamiamola come vogliamo, ma si va strutturando un vivere civile che è un pochino più civile che se fosse lasciato solamente alle regole strette del mercato, che pure rispettiamo. Certamente, grazie professor Silvano. Vorrei lasciare un'ultima parola a Fabio Bistoncini, ricordo l'autore di 20 anni da sporco lobbista, in fondo questo libro è la lobby che fa lobby su se stessa. La lobby che cerca di, un professionista della lobby che cerca di fare chiarezza e quindi pone in rilievo come la lobby in realtà sia un elemento che migliora la qualità della democrazia, perché migliora la qualità della decisione. Più informazioni il decisore pubblico ha a disposizione prima e durante la decisione, meglio è per tutti. E quindi c'è due strade per, diciamo, far crescere la società: maggiore informazione alla politica perché prenda delle decisioni sagge, maggiore socialità perché anche l'economia possa crescere secondo delle logiche, rispettando il mercato, che è un elemento fondamentale, ma andando oltre, riconoscendone anche i valori. Questo è forse quello che unisce questi due libri. Ve li ricordo: di Fabio Bistoncini, 20 anni da sporco lobbista, edito da Guerini Associati, 188 pagine per 18,50 euro, curato da Giovanni Silvano, Società e Terzo Settore, La Via Italiana, edito da Mulino, 360 pagine, 27 euro. Ringrazio Fabio Bistoncini e Giovanni Silvano, così come ringrazio Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per la prossima settimana, grazie a quanti ci hanno seguito.